ad alta voce. Valerio Aprea legge Alberto Moravia. Ladri in chiesa. Che fa il lupo? Quando la lupa e i lupetti hanno fame e stanno a pancia vuota, lamentandosi e bisticciandosi tra loro, che fa il lupo? Io dico che il lupo esce dalla tana e va in cerca di roba da mangiare e magari, dalla disperazione, scende al paese ed entra in una casa. E i contadini, che l'ammazzano, hanno ragione di ammazzarlo. Ma anche lui ha ragione di entrare in casa loro e morderli. Così tutti hanno ragione e il torto non ce l'ha nessuno. E dalla ragione nasce la morte. Quell'inverno io ero come il lupo, e anzi, proprio come un lupo, non abitavo in una casa, ma in una grotta, laggiù, sotto Monte Mario, in una cava abbandonata di puzzolana. Ce n'erano parecchie di grotte, ma le più erano ostruite dai rovi. Due sole erano abitate, quella mia e quella di un vecchio, che un po' mendicava e un po' andava in giro a raccogliere stracci, e si chiamava Puliti. Il luogo, a ridosso del monte, era giallo e pelato, con le aperture delle grotte tutte affumate e nere. Davanti la grotta di Puliti c'era sempre un mucchio di stracci e lui che ci frugava. Davanti la mia c'era un bidone di benzina che ci serviva da fornello e mia moglie, in piedi, con il bambino al petto, che menava la ventola per accendere i carboni. Dentro la grotta era perfino meglio di una camera in muratura, spaziosa, asciutta, pulita, con il materasso in fondo e la roba appesa ai chiodi. La famiglia dunque la lasciavo alla grotta e andavo a Roma a cercare lavoro. Ero bracciante e per lo più lavoravo negli sterri. Poi venne l'inverno e non so perché gli sterri se ne fecero sempre meno e io cambiai mestiere tante volte, ma sempre per poco tempo e alla fine restai senza lavoro. La sera, quando tornavo alla grotta e vedevo, alla luce della lampada a olio, mia moglie accovacciata sul materasso che mi guardava e il bambino che teneva al petto che mi guardava e i due bambini più grandi che giocavano in terra che mi guardavano e leggevo in quegli otto occhi la stessa espressione affamata, mi pareva proprio di essere un lupo con una famiglia di lupi e pensavo: uno di questi giorni, se non gli porto da mangiare, vuoi vedere che mi mozzica. Puliti, quel vecchiaccio, che a vederlo con la sua bella barba bianca pareva un santo, e poi invece, appena apriva bocca, subito si capiva che delinquente era, mi diceva: «Perché li mettete al mondo i figli? Per farli soffrire! E tu intanto, con le cicche, sempre qualche cosa ci rimedi!» Ma io non me la sentivo di andare in giro a raccattare cicche. Volevo lavorare con le mie braccia. Una sera, dalla disperazione, dissi a mia moglie: «Non ce la faccio più. Sai che ti dico? Mi apposto all'angolo di una strada e il primo che viene...» Mia moglie mi interruppe: «Vuoi andare in galera?» E io: «Almeno in galera si mangia!» E lei: «Tu sì, ma noi...» Quest'ultima obiezione, lo confesso, fu decisiva. Fu Puliti che mi suggerì l'idea della chiesa. Frequentava le chiese per mendicare e le conosceva, si può dire, tutte una per una. Disse che se mi facevo chiudere la sera in una chiesa, poi, se ci sapevo fare, la mattina potevo scappare senza che mi vedessero. Avvertì poi: «Fa attenzione però, i preti mica sono scemi. La roba buona la tengono nella cassaforte e quelli che vedi sono fondi di bicchieri». Finalmente affermò che se la sentiva, una volta che avessi fatto il colpo, di rivendere la roba. Insomma, mi mise una pulce nell'orecchio, sebbene poi non ci pensassi e non ne parlassi più. Ma le idee, si sa, sono come le pulci, camminano da sole e quando meno te lo aspetti ti danno un morso e ti fanno saltare in piedi. Così, una di quelle sere, l'idea mi diede il morso e io ne parlai a mia moglie. Ora bisogna sapere che mia moglie è religiosa e al paese, si può dire, stava più in chiesa che in casa. Disse subito: «Che sei diventato matto?» Io avevo preveduto l'obiezione e le risposi: «Questo non è furto. La roba nella chiesa, perché ci sta? Per fare il bene. Se noi prendiamo qualche cosa, che facciamo? Facciamo il bene. A chi infatti si dovrebbe fare il bene se non a noi che abbiamo tanto bisogno?» Lei parve scossa e domandò: «Ma tu, come le hai pensate tutte queste cose?» Io dissi: «Non te ne occupare e rispondi. Non è scritto forse che bisogna dar da mangiare agli affamati?» «Sì». «Siamo o non siamo affamati?» «Sì». «Ebbene, in questo modo facciamo il nostro dovere. Anzi, facciamo un'opera buona». Insomma, tanto dissi, sempre insistendo sulla religione, che era, come sapevo, il suo punto debole, che la convinsi. Soggiunsi poi: «Ma siccome non voglio che rimani sola, verrai con me. Così, in galera, se ci scoprono, ci andremo insieme». «E le creature?» «Le creature le lasciamo a Puliti. Poi ci penserà il Signore». Così ci mettemmo d'accordo e quindi ne parlammo a Puliti. Lui discusse il piano, approvandolo, ma alla fine disse, lisciandosi la barba: «Domenico, da retta a me che sono vecchio. I cuori d'argento lasciali stare, è roba da poco. Attaccati alle gioie». Quando ripenso a Puliti, alla sua barba e alla gravità con cui mi dava questi consigli, quasi quasi mi viene da ridere. Il giorno fissato lasciammo i bambini a Puliti e scendemmo con il tram a Roma, proprio come due lupi affamati che scendono dal monte al paese. E chiunque, vedendoci, ci avrebbe preso per due lupi. Mia moglie, bassa e tarchiata, tutto petto e spalle, con i capelli crespi, ritti, che le facevano come una fiamma sulla testa, la faccia risoluta. Io, magro, scannato, il viso a coltello, nero, di barba, gli occhi incavati e scintillanti. Avevamo scelta una chiesa antica dalle parti del corso, in una traversa. Era una chiesa grande e molto buia, per via che ci aveva case tutto intorno, con due file di colonne e al di là delle colonne due navate strette e buie, con tante cappelline piene di tesori. Di vetrine con cuori d'argento e dorati ce n'erano in quantità appese alle pareti, ma io avevo messo gli occhi su una vetrinetta più piccola, dove, tra pochi cuori più preziosi, stava in mostra una collana di lapislazzuli su un fondo di velluto rosso. Questa vetrinetta si trovava in una cappella dedicata alla Madonna. E infatti, in cima all'altare, sotto un baldacchino, c'era la statua della Madonna, di grandezza naturale, tutta dipinta, con la testa circondata da un nimbo di lampadine e ai piedi molti vasi di fiori e molti candelabri. Entrammo in chiesa, che era già notte. e un momento che non c'era nessuno. Ci nascondemmo dietro l'altare, in quella cappella dove era la vetrina. C'erano due o tre scalini dietro la statua e sedemmo su quelli. A un'ora tarda il sacrestano prese a girare per la chiesa, strascicando i piedi e borbottando «Si chiude!». Ma dietro quell'altare non ci venne e si limitò a spegnere tutte le lampade all'infuori di due lumettini rossi, uno per parte. Poi lo udimmo che chiudeva le porte e alla fine traversò la chiesa per tutta la sua lunghezza e se ne andò dalla parte della sacristia. Eccoci dunque al buio, in quel corridoietto, tra l'altare e la parete dell'abside. Io avevo la febbre e dissi sottovoce a mia moglie, «Su, facciamo presto, apriamo la vetrina». La udii rispondere, «Aspetta, che fretta c'è?». E poi la vidi uscire dal nascondiglio. Andò in mezzo alla cappella, fece lì, in quella penombra, un inchino, si segnò. Poi, camminando a ritroso, fece un altro inchino e si segnò una seconda volta. Finalmente la vidi inginocchiarsi in terra, in un angolo della cappella, e giungere le mani come per pregare. Che preghiere fossero non saprei, ma capii che non era poi tanto convinta di far bene, come le avevo detto, e voleva premunirsi per quanto poteva. La vedevo chinar la testa, nascondendo il viso sotto la massa dei capelli, e poi rialzare il viso in quella lucetta rossa, muovendo le labbra, e poi riabbassarlo, proprio come al rosario. Mi avvicinai e le mormorai, inquieto, «Le preghiere potevi anche dirle a casa, no?» «Ma lei rude, lasciami perdere. Va, gira, la chiesa è tanto grande. Proprio qui hai da stare?» Sussurrai. «Vuoi, intanto che tu preghi, che io apra la vetrina?» E lei, sempre sgarbata, «Non voglio nulla, anzi, quel ferro, dalla a me». Il ferro era un paletto più che sufficiente per aprire quella vetrinetta traballante. Glielo diedi e mi allontanai. Presi a girare per la chiesa, senza sapere che fare. La chiesa, in penombra, mi faceva paura, con le volte alte e buie che a un sospiro rintronavano. Con l'altare maggiore laggiù, in fondo, monumentale, luccicante appena, con i confessionali neri e chiusi, appiattati al buio nelle navate laterali. Camminando in punta di piedi, andai alla porta, tutto solo, tra le due file di banchi vuoti, e mi sentivo freddo alle spalle come se qualcuno mi seguisse. Provai ad aprire la porta, vidi che era proprio chiusa, e allora tornai indietro e andai a sedermi nella navata di sinistra, davanti a una tomba illuminata da una lucernetta rossa. La tomba, murata nella parete, aveva una grande lapide di marmo nero, lucido, e due figure, una per parte. Uno scheletro che impugnava una falce e una donna nuda, avvolta nei propri capelli. Ambedue le figure erano di marmo giallino, brillante, scolpito benissimo, e io mi distrassi un poco a osservarle e a furia di guardarle mi pareva, forse a causa del buio, che si muovessero e che la donna accennasse a fuggire dallo scheletro e questi, galante, la trattenesse per un braccio. Allora, per rinfrancarmi, pensai alla grotta, ai figli, a Puliti, e mi dissi che se in quel momento mi avessero proposto di tornare indietro e di scegliere di nuovo quello che dovevo fare, avrei fatto la stessa cosa, o perlomeno una cosa molto simile a questa. Insomma, non era un caso che fossi in quella chiesa, e non era un caso che ci fossi per quello scopo, e non era un caso che non avessi trovato niente di meglio da fare. Tra questi pensieri mi venne sonno e mi addormentai. Fu un sonno pesante, senza sogni, sigillato dal freddo che in quella chiesa pareva di cantina. Così dormii e non mi accorsi di nulla. Poi qualcuno mi scuoteva e io nel sonno dissi: «Oh, vacci piano, che ti prende?» Finalmente, siccome continuavano a scuotermi, aprii gli occhi e vidi gente. Il sacrestano che mi guardava con gli occhi fuori dalla testa, il parroco, un vecchio, coi capelli bianchi spettinati e la veste ancora sbottonata, due o tre guardie e tra le guardie mia moglie, più tetra che mai. Dissi così, senza muovermi: «Lasciateci stare, siamo sfollati e siamo entrati in chiesa per dormire». Allora una delle guardie mi mostrò qualcosa che lì per lì, tanto ero intontito dal sonno, scambiai per un rosario: la collana di lapislazzuli. «E questa? Anche questa per dormire?» Insomma, dopo qualche altra spiegazione, le guardie ci presero in mezzo e uscimmo dalla chiesa. Era ancora notte, ma verso l'alba, con le strade deserte e bagnate di guazza. Andavamo di fretta per quelle straducce tra le guardie, a testa china, muti. Vedendo mia moglie, che mi camminava davanti, poveretta, così tarchiata e bassa, con la gonnella corta e i capelli ritti sulla testa, mi venne compassione e dissi a una delle guardie: «Mi dispiace per lei e per i miei figli». La guardia mi domandò: «Dove ce l'hai i figli?» Glielo dissi e lui: «Ma tu, un padre di famiglia, come ti è saltato in mente? Non hai pensato ai tuoi figli?» Io gli risposi: «È proprio perché ci ho pensato che ho fatto quello che ho fatto». Al commissariato, un giovane biondo, seduto dietro una scrivania, come ci vide, disse: «Ladri sacrileghi, eh?» Ma mia moglie, tutta ad un tratto, gridò con una voce terribile: «Davanti a Dio, non sono colpevole!» Io non le conoscevo quella voce e rimasi a bocca aperta. Il commissario disse: «Allora è tuo marito il colpevole?» «Neppure!» «Sta a vedere che il colpevole sono io. E la collana come l'hai avuta?» «E mia moglie?» «La Madonna è scesa dall'altare, ha aperto con le sue mani la vetrina e mi ha dato la collana». «La Madonna, eh? E anche il piediporco ti ha dato la Madonna?» E mia moglie, sempre con quella voce, alzando una mano: «Potessi morire se non ho detto la verità!» Continuarono a interrogarci non so quanto tempo, ma io dicevo che non avevo visto niente, come era vero, e mia moglie ripeteva che la Madonna le aveva dato la collana. Ogni tanto gridava: «Uomo, inginocchiati davanti il miracolo!» Insomma, pareva esaltata o addirittura matta. Andò a finire che la portarono via mentre continuava a gridare e a invocare la Madonna. Credo che la mandassero all'infermeria. Poi il commissario voleva sapere da me se mi risultava che mia moglie fosse matta, e io gli risposi: «Magari lo fosse davvero», pensando che i matti non soffrono e le cose le vedono come par a loro. Ma pensavo pure che poteva darsi che mia moglie avesse detto la verità, e quasi quasi mi dispiaceva di non aver visto coi miei occhi la Madonna scendere dall'altare, aprire la vetrina e consegnarle la collana. Valerio Prea ha letto Alberto Moravia, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it.